Tu in un parrò si fici ancora i fatti so. Tu in un parrò si fici ancora i fatti so. Ma ci fu cubarrau, c'è la malecchia cubarrau, c'è la malecchia cubarrau, c'è la malecchia cubarrau. Parlato, ecco ha parlato, guarda parla la bambina, sa parlare, ha detto papà, ha detto papà, dire lo sa, sa, sa, ecco guarda parla di nuovo, dice papà, papà, papà. Mio papà criminale, mio papà, papà, papà, papà, papà, cosa mi succederà? Papà, papà, papà, ta ta ta ta ta, la bambina parla, parla. Guarda, parla, Peppino parla, guarda, guarda, sa parlare. Ha detto papà, ha detto papà. Papà pa, pa, dice papà, ratatatatata. Peppino sa parlare e allora parlerà, perché al gioco non ci sta, tratatatatatata. Papà papà papà, tratatatata, il bambino parla, parla, tratatatatata. Papà papà papà, tratatatata, il bambino parla, parla, tratatatatata. Fuzik ci sapeva fare il suo mestiere, le parole, ma col nemico non le usò, seppe dire no. Parleranno ancora, e parleranno in tanti, e parleranno ancora, sono questi i nostri santi. E parleranno ancora, e parleranno in tanti, e parleranno ancora, sono questi i nostri santi. E parleranno ancora, e parleranno in tanti, e parleranno ancora, sono questi i nostri santi. E parleranno ancora, e parleranno in tanti, e parleranno ancora, sono questi i nostri santi.